Ben fatto. Primo ostacolo superato. Ora è in arrivo il secondo scoglio. Questa volta, mago, inizia tu con 4 remate consecutive.